All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, è la cena dei regini, io sono il Bach, questa è la cena dei regini. Una volta a settimana organizzo questa cena per parlare con i miei collaboratori, per conoscere nuovi ospiti che ci vengono a trovare. È insomma una città che è mala, vita, spazza, dura, vita. Esattamente, come dire, abitata da questi personaggi qua. Noi diamo un esempio diverso, parliamo di Reggio e dimostriamo comunque che c'è una Reggio diversa che sta vivendo e che è qui a questa tavola. La buona energia della città passa da qui. Ricoperta di gelato. Ovviamente, possibilmente ricoperta di gelato. Andate su www.ilbach.it, cliccate la cena dei regini per ascoltare le puntate precedenti, per comunicare con noi. Iniziamo con un po' di musica, i Danish Daycare con A Purpose to My Sins. Go away, I would. Ieri eccoci alla cena dei Regini, www.ilbac.it, cliccate la cena dei Regini e adesso parliamo delle cose fatte, delle cose da fare in questa settimana qua all'house con tutto quello che si organizza e quello a cui partecipiamo. In particolare nell'ultima serata sono stato alla serata di economia alternativa intitolata L'uso sociale del denaro per uscire dalla crisi. È una serata bellissima. Il grande ospite era il famoso Alex Zanotelli, un tra l'altro prelato che è venuto a parlare dell'uso sociale del denaro. Quindi questa idea, come lo definisce lui, combattere il sistema finanziario tradizionale ma ormai malato, perché produce il denaro per autofinanziarsi, e quindi questa ha fatto un discorso di critica sociale. Posso dire anche una serata che trasudava comunismo, perché comunque c'era molto red nell'aria, diciamo, cioè, però non è una cosa necessariamente negativa, nel senso che comunque c'era proprio forte questa idea, tra cui il lancio, l'idea di creare la MAG delle Calabrie, cioè questa specie di cooperativa che serve ad autofinanziare le nuove attività che nascerebbero a Reggio e quindi che cercherebbero di uscire dalle lobby politiche o comunque istituzionali che si vengono a creare quando si vuole creare un'azienda. Ed è stata una cosa veramente simpatica. Lui è un personaggio strepitoso, perché il classico prete fuori dalle righe, quindi comunque maglietta anni 70, tipo da che si fa con la candeggina, sì, è un tipo veramente incredibile. Altra cosa che abbiamo fatto questa settimana è il LAN party. Ci siamo spassati un po' a giocare ai computer, praticamente un po' di frag assaportati. È stata una bella serata, credo che abbiamo conosciuto amici nuovi che sono entrati a far parte dell'idea e che comunque ci hanno già dato nuove idee per altre serate da fare in futuro, in particolare un incontro sul un lungo dialogo sul cinema contemporaneo e non, che ci ha introdotto all'idea di fare queste serate di cinema, o almeno ampliarle, per sfruttare un po' quel filone, di proporre quel filone di film un po' di nicchia, un po' non del tutto visti e rivisti, e comunque proporli in una serata più cordiale, più tranquilla, insolita, in cui rilassarsi e vedere insieme un bel film. Quindi una cosa carina, nata da una serata altrettanto simpatica, perché alla fine il LAN party è durato molto meno della discussione che abbiamo avuto sul cinema. Sì, del sì. Discorso cinema ci ha preso molto, come sempre. E beh, giustamente, quando viene a trovarci comunque una persona nuova, abbiamo modo di confrontarci su delle idee costruttive, cose che sono rare ultimamente, è giusto comunque dare spazio. E poi è stata una bella serata, mi sembra che tra l'altro da un punto di vista tecnico di frag eccetera Andrea abbia dato il meglio di sé. Abbiamo scoperto un cecchino. La prima volta che giocavo spaccavo tutto e ho continuato a giocare pure a casa. Ormai è entrato nel vortice di Saber Brother, quindi su un server troverete il suo nick, vi sterminerà sicuramente, perché veramente si è dato da fare il ragazzo. Fear of the cookie. Fear of the cookie, questo nick. Altra cosa che ci attende invece in questa settimana e nelle successive, questo venerdì, grande Nerf War. Facciamo un esperimento, un tentativo di portare l'Army Nerf all'interno dell'Ars, o comunque questo pomeriggio di battaglia con le armi Nerf. Armi Nerf che, come ho scritto anche su internet, sono armi del tutto funzionali ma del tutto innocue, quindi la possibilità di giocare con delle armi simpatiche, non esattamente replica di armi reali, però comunque abbastanza gradevoli e che funzionano. E la cosa particolare è che sfruttano questi proiettili di materassino di gomma piuma, che quindi li rendono totalmente innocui e non c'è bisogno né di protezioni particolari né di un particolare equipaggiamento tecnico. E questo penso che sia fantastico, perché comunque creeremo due squadre per giocare una specie di ruba bandiera. Esatto. E quindi passeremo dai frag virtuali di Saber Bratton ai frag reali della Nerf War. E ammazzo tutti! Vediamo se Andrea sarà. Me la farò correndo e saltellando. E vedete tipo il mio nickname sopra la testa. Prende saltellando, Andrea comincerà tutto. No, vedremo invece se poi lontano da tastiera e mouse riuscirà a confermare i suoi risultati. E quindi facciamo questo esperimento. Abbiamo detto, nelle prossime giornate prepariamo le altre armi che abbiamo dentro, un discreto arsenale di armi Nerf, quindi che dobbiamo ricolorare, ripreparare per queste attività. E ci dedicheremo a questo. Il 4 agosto, domenica, ragazzi, si ritorna a Camelot. Si ritorna a Camelot per continuare le avventure intraprese, per meglio dire la storia, diciamo, la trama iniziata nella scorsa sessione, in cui comunque si è scoperto una specie di come dire, tranello, una specie di inganno ai danni di Camelot stesso, in cui i giocatori dovranno qui, vedi, non lo trovo, però l'avevo scritto. Vabbè. I giocatori dovranno svelare l'identità, o comunque scoprire la provenienza di questo malvagio Curzon, questo personaggio nascosto nell'ombra che sta cercando di infettare tutta Camelot per trasformarla in un luogo assolutamente malvagio. Riusciranno i nostri eroi? Speriamo di sì, anche perché ne fa delle sorti di Camelot. Perché l'ultima volta, per chi non lo sapesse, i nostri eroi a Camelot hanno trovato comunque dei dettagli che portavano a pensare che Camelot fosse sotto le mire di qualcuno con un grande potere magico. Esatto, sono stati esatto. Trovati degli indizi degli strani fiori, delle pozze di pece malefiche. Adesso vediamo dove porteranno tutti questi indizi. Io me lo trovo subito. Cioè? Come entri in gioco ammazzo tutti. Ti devi uscire dal personaggio di Saber Bratton, ancora è rimasto a quella. E poi ragazzi, a continuare, serate di cinema e serate di musica, perché si riprende con qualche serata di musica che è già in programma, e insomma animiamo quest'estate regina con diversi eventi di diverso tipo: cinema, musica, giochi di ruolo dal vivo e quant'altro. Ragazzi, non dite che non vi voglio bene. Queste sono tutte le cose che ci aspettano in questa settimana. Per tutto il calendario nel dettaglio, il calendario d'agosto su www.tbac.it. iscrivetevi anche alla newsletter, che permette di avere nella vostra mail in tempo reale tutte le novità. E tra l'altro trovate il calendario d'agosto ancora parzialmente in via di definizione, perché alcune cose le sto concertando in questi giorni, però comunque già tutta la parte iniziale è già completa con tutte le informazioni per partecipare. Ragazzi, finita questa parte, passiamo un po' di musica prima dell'angolo delle notizie con Fernando in No More Rain. E della cena dei regini, www.ilbac.it, cliccate la cena dei regini per contattarci, venirci a trovare e ascoltare le puntate precedenti. Passiamo all'angolo delle notizie. Notizie veramente inusuali questa settimana. Devo dire la verità, ho cercato notizie ambientate a Reggio, ma è stato veramente difficile trovare qualcosa di diverso dalle solite appunto le solite tragedie. Andiamo invece al Comic Con in America, dove George R. R. Martin, il famoso scrittore, tra cui autore di Trono di Spade, dicendo, ha invaso il palco durante lo spettacolo di Neil Gaiman e ha distrutto una chitarra per vendicarsi di un post di Neil Gaiman del 2009 addirittura. Quindi non solo avanti con l'età, ma la memoria è buona e i muscoli anche, perché ha veramente fatto questo spettacolo in un post in cui nel 2009 Gaiman criticava il fatto che Martin seguisse molto si lasciasse un po' influenzare nelle pubblicazioni dei suoi fan, e quindi scrisse un messaggio molto ironico. E Martin si è presentato sul palco con tanto di barbetta tipica lunga, così ha preso una chitarra, l'ha spaccata e si è benevolmente vendicato ad avere 65 anni con questa energia, insomma. Ad avere anche i suoi soldi non era davvero male. E poi ragazzi, invece, parlando di soldi, è quasi pronto, almeno sarà annunciato a breve, l'iPhone low cost. Scoppia una nuova polemica sulle condizioni di lavoro degli operai nelle fabbriche cinesi che producono questi prodotti Apple, che sono sottoposti ovviamente a turni di lavoro massacranti, e comunque pare che stia per uscire il famoso iPhone low cost. Sì, ho visto qualche foto, però è low cost. Vanno proprio, sì, molto low cost. No, ma la verità è che l'Apple l'ha fatto apposta per darmi l'occasione di sfottere pubblicamente le persone che comprano l'Apple low cost. Che sì, caspita, sì. Significa l'Apple low cost? È come dire una Ferrari sì. Il motore di una Fiat 500. Sì, domani la Ferrari invece di fare la lamiera la fa di plastica, perché è così che sta facendo Apple. Esatto. E poi si mette il motore di una Ferrari che costruiva negli anni 60. È competitiva. Competitiva al massimo. Fantastico. Quindi l'Apple mi dà la possibilità di sfoccare quelli che asseconderanno questo triste piano di farmi fondo la costa. Meglio così, perché comunque si apre spazio alla concorrenza, quindi tanto meglio. Concorrenza che invece nel caso delle auto diventa sempre più spietata e sempre più verso la tecnologia. Le auto intelligenti, che sembrano far parte ormai anche del presente oltre che del futuro, sono quelle auto comandate o comunque gestite totalmente dall'elettronica, però rappresentano anche un rischio. Ne sono convinti Charlie Miller e Chris Valasek, due cari americani che sono riusciti ad hackare un'auto e addirittura guidarla utilizzando, cosa fantastica, un vecchio joystick per il vecchio Nintendo. Ed è spettacolare come per cosa. I fan come noi sono cresciuti a pane Nintendo. Cioè, chissà se premevi il tasto A saltava l'auto. Tu ti immagini entrare in auto e fare il codice Konami, destra, sinistra, sinistra, BA, start, che diventa bellissimo. Un transformer. Cioè, potevi sbattere 10.000 volte e non si rompeva mai. Le vite infinite. Le vite infinite. Ragazzi, veramente particolare. Ma la cosa bella è che è una notizia comunque preoccupante, però comunque il nostro coefficiente nerd permette di vedere fantastico il discorso di guidare con un vecchio joystick. Questa cosa è bellissima e poi è da sfruttare, perché voglio dire, è carino, in un futuro tu arrivi là, attacchi il joystick e guidi la tua auto tranquillamente. Poi magari gli mettono un sistema Windows e ti dice non trovo i driver, collegarsi all'update. La fine. E ragazzi, l'estate, l'ho sempre detto, fa bene, E adesso mi danno ragione anche questi scienziati australiani, che sulla rivista Experimental Eye Research spiegano che l'estate fa bene agli occhi e protegge la vista. Stare all'aria aperta, come avviene spesso, specie per i ragazzini, previene la miopia e comunque tutti i danni che poi col tempo fanno solitamente parte della vita dell'occhio. Il problema qual è? Che i ragazzini non stanno più all'aria aperta. La gente lavora anche d'estate, però comunque è bello che comunque questa notizia sia diffusa, perché sì, oggi stavo passeggiando con la mia ragazza e c'erano tre ragazzini. Ne abito vicino al mare, no? Quindi vedo. Cioè, si tre ragazzini sotto ombrellone col mare davanti. Che giocavano con l'iPhone là. Ecco. Non quello low cost. Perché in spiaggia, spieghiamo che l'iPhone low cost si squaglia su questo. È di plastica, ma è plastica proprio quella scadente. Che low cost? Quelle fanno i giocattoli, le sedioline. Quelle fanno i giocattoli cinesi e sono anche tossici, quindi non li mordete gli iPhone da rocchi. Non provate a mangiarli. Non fate foto sexy con gli iPhone da rocchi. Che non si sa mai. E ragazzi, a proposito di sexy e rapporti di coppia, grande svolta nell'universo, comunque nell'immaginario collettivo, dove solitamente l'uomo ha questo ruolo, diciamo, di conquistatore, almeno presunto tale. E invece, ragazzi, la monogamia è dettata dagli uomini. Secondo una prima teoria, le spiegazioni alla base della monogamia sono tre. Prima teoria è che la prole è esigente, e quindi due genitori sono sempre meglio di uno, e quindi la necessità comunque di avere una famiglia stabile. Seconda tesi, che i maschi hanno bisogno di stare vicino alle loro compagne per scongiurare i maschi rivali. Bellissima questa, quindi la voglia di primeggiare sulla donna. E terza teoria, i maschi seguono rigorosamente le femmine per difendere la loro prole dalla violenza di altri maschi che potrebbero ucciderla. E quindi comunque... Ma per quale specie animale funziona questo? In generale. In generale? Ah, pensavo per l'uomo. Anche. È una ricerca sulla natura a 360 gradi. Vabbè, interessante il fatto che comunque alla fine, che se ne dica, il maschio, se non l'uomo, è il collante della coppia monogama. Fantastico questa cosa. Sì. Perché non mi vedo entusiasti? C'è qualcosa che non va? No, perché io A me piace così, sinceramente. Vorrei un'opinione femminile, perché non ne abbiamo stasera, però vorrebbe essere un buono spunto di riflessione per le nostre amiche a casa che ci potranno scrivere. Sicuramente, scriveteci, ma non lo so, perché su questo argomento sicuramente non è il caso di dire. Non sono molto obiettive le donne. No, però... infatti, ma non non diciamo niente, che è meglio. Facciamo soltanto che scrivano loro e poi la settimana prossima vediamo. Per una volta ti attengo le mie battute. È meglio. Ragazzi, adesso un po' di musica. Maria Contreras, Tu and Me. Estamos así y cantarte lo que siento por ti. Decir que nos queremos y que nunca nos olvidaremos es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo y se acurruca en mi corazón para decirte, mi amor, que cada día que pasa me enamoro más de tu mirada y me gusta lo que siento en mí cuando estoy junto a ti. Thank you. abrazas y la forma en que me ves. Es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo y se acurruca en mi corazón para decirte, mi amor, que cada día que pasa me enamoro más de tu mirada y me gusta lo que siento en mí. Poco a poco con el tiempo y se acurruca en mi corazón para decirte, mi amor, que cada día que pasa me enamoro más de tu mirada y me gusta lo que siento en mí. www.tilbac.it, cliccate la cena dei regini e intanto andiamo a vedere la nostra classifica settimanale. La classifica questa settimana ha largo spazio al mondo della fantasia perché sono gli 11 segni tipici, classici, che voi state diventando un cattivone della Disney. Quindi se c'è questa mutazione in atto nella vostra vita, lo riconoscete sicuramente da questi cenni importantissimi. Numero 1. Si conosce l'importanza di un ingresso teatrale. È questo. Il cattivone della Disney è un classico. Entra, specie col mantellone, queste cose qua. Infatti quando arrivo al lavoro la mattina, entro e faccio "il mondo è mio!" Oppure io che entro all'house con un ventilatore e tutti e si inchinano. Sì, quello è il caldo. Caldo! Numero 2. Al lavoro sei un capo del tutto freddo ma leale. Sì. Quindi i capi freddi ma leali comunque si stanno trasformando. Fortunatamente i miei non sono né freddi né leali. Quindi, quindi tu lavori per i buoni. No, lavoro per gli stronzi. Non sono né leali né freddi. La mafia! No, non è quello. Ancora no. Già solo perché il tuo soprannome è Pusher, bisognerebbe farsi le domande. No. Va bene, andiamo. Numero 3, hai una bassa tolleranza per gli idioti. Sì. Questo è un mito. Beh, direi di sì, perché comunque, come anche Sergi del Crepuscolo ci insegna, comunque avere a che fare con degli sgherri non all'altezza delle nostre aspettative da un punto di vista della conquista del mondo comunque fa i suoi danni. Scusa, mi stai dicendo che non ero nelle aspettative? No. Senti, ma sono fatta mangiando cervelli per tutta la giocata. Appunto. Erano gli altri che chiamano la polizia per arrestare l'altro oscuro signore. Certo. Se permette. Che tragica cosa. Che tragica reminiscenza di quella partita di giochi di ruolo. Però bisogna avere a che fare con dei servi fallimentari, quindi. Però basta tolleranza, quindi saperli tenere in riga, saperli sgridare, quindi. Numero 4, non si ha paura di esprimere il vostro disappunto. Necessario. Certo, siete malvagi. Come hai usato? Fallire! Non fate altro che esprimere il vostro disappunto. Appunto. Ah, è vero! Noi ci stiamo allenando con Andrea, ma. È il nostro sgarbo. Sì, padrone! Andrea, hai fallito. Andrea, pensi, io un domani potrei diventare la strega di Cenerentola. Io ti porto il ventilatore. L'hai visto? Numero 5. Sei sempre felice di fare un favore per i vostri collaboratori o boss. Perché dovrebbe essere? Ok, mi sto trasformando nel cattivo di qualche altra serie di cartoni animati, non della Disney. Questi saranno i Goblin di Sì Oscuro Signore. Questi sono i segni che sta diventando un cattivo della Disney visto dagli americani. Ah, vabbè, ora si spiega. Mi sa che è per questo che c'è, okay, questa. Però l'importanza di fare un favore ai collaboratori o ai boss, cioè quindi anche questo saper la diplomazia con le alte sfere del il lecchinaggio. Esatto, si dice. Ora ho capito. Perché la conquista del mondo passa anche da queste cose, quindi sì, può essere importante. Numero 7, sei sicuro della tua impeccabilità e della felicità nella propria azienda. Sei sicuro della tua impeccabilità, la felicità alla tua azienda. Per fortuna il pusher fa schifo. No, ma la tua azienda in senso proprio come questo piano di conquista del mondo, quindi la sicurezza di riuscire a conquistare il mondo. Cioè, si fanno tutto questo studio. Eh sì. Sono i segni inconfondibili che stai per diventare un cattivo andatista. Numero 7, si sa esattamente come vestirsi per impressionare. Assolutamente. Il mantellone, la coroncina per le cattivone, lo scettrino per i malvagi. I colori rosso, nero e viola scuro. Esatto, viola scuro, grande classe. E quindi comunque una certa presenza scenica, diciamo, nelle sei. Tra l'altro io ne so qualcosa, okay. Ho abbandonato i pantaloni 5 tasche, okay. dopo anni di attività, quindi. Numero 8, le persone cercano di copiare tutto il tempo il tuo stile. Purtroppo è vero. A me capita spesso. Okay. No. Può capitare, perché tutti vogliono conquistare il mondo e quindi alla fine tutti vogliono copiare il tuo stile, avere il tuo successo in queste cose. Numero 9, quando ti degni di andare fuori tu sei il sale della festa. Cioè che rovina questa tutto. Una festa difficile, perché se ti degni il sale della festa è quello che rende speciale la festa. Una festa. Cioè, ma che feste c'hanno in America? Dove quello. Dipende se è un cupcake party. Cupcake party, quelli dove danno pasticcini gratis, no? Se tu sei il sale sui pasticcini. Ok, va bene, me ne vado. Ragazzi, l'altra volta vi abbiamo promesso che gli scrivevamo i testi ad Andrea, non l'abbiamo fatto, per questo si vede. Scusate, c'è da lavorare su Andrea. Che è l'unica a fare battute all'americana su battute degli americani. È vero? Fantastico. Solo che noi siamo a Reggio Calabria. Fantastico. E quindi non avete senso dell'umorismo. Abbiamo un senso un pochino più terrone dell'umorismo. Numero 10, sei un maestro di interazione sociale. Necessario. Interazione sociale, quindi conquista del mondo, conquista dei deboli, della supremazia. Come fare a meno? Giusto? Ora capisco perché si dà lo sbacco. Ma immagina per esempio il mangiafuoco di Pinocchio. Quello che comunque conquistava un po' tutto all'interno del suo circo, del suo carrozzone, no? Appunto. Quindi teneva tutti, sia con tutte le caratteristiche di prima, comunque la barba, un vestito scenico, certo. Il vocione magari, perché comunque si incazzava. Effettivamente, dai. Ci sta. Non le sparano così grosse questi americani. Però non me lo ricordo il mangiafuoco in Pinocchio. Ma per niente. Dobbiamo fare serata cinema con Pinocchio. Cioè, interpretiamo noi il mangiafuoco. Cioè, da piccolo mi ha così. Non lo so, mi ha così distrutto psicologicamente il mangiafuoco che non lo ricordo, l'ho rimosso. Addirittura. Perché ero piccolino, quando ero piccolino. Perché ti ricordi il film? Hai presente? Ah sì, il film è il cartone animato, non mi ricordo nessuno dei due. Beh, il cartone animato. Nel cartone animato arriva poco, mi pare. cartone animato era quello giapponese. Quello della Disney, della Disney. No, perché c'era anche la versione giapponese. No, quello giapponese non l'ho mai guardato. Caspita, ragazzi, caspita. Mi ma con i robottoni? Quasi. Perché Pinocchio? O con i demoni. Aspetta, aspetta. Oggi sapete che cosa ho visto? La versione giapponese, anime giapponese di Iron Man. È iniziata tutta carina, tranquilla, con Tony Stark che va in Giappone. Yeah, normale. Cosa succede a un certo punto? Che da nulla sbucano questi, indovina un po', robottoni a forma di animale che fanno parte di un'organizzazione che si chiama Zodiac. O meglio, i potenti guerrieri di Zodiac. Dello Zodiaco, come dice la traduzione. Ora, ci mancava solo che quando era sconfitto diventava più grande di 10 metri ed era una nuova puntata dei Power Rangers. Ma loro sono fatti così, ragazzi, riescono a mettere queste cose ovunque. Eccolo qua. Vabbè, fai conto che i Power Rangers vengono dai Google 5, appunto giapponesi, che facevano Google le stesse mosse dei Power Rangers. No, ma vedi che i Power Rangers l'hanno fatto 10 anni prima. Non ve lo ricordate? Ah, perfetto. Io sì, sì, però sì, non l'ho mai visto. Le nuove avventure di Pinocchio, questo mitico di film, cartone animato giappo, dove Pinocchio vive questa avventura molto. No, ma comunque Power Rangers bello, sì, con l'odio e poi Miyamoto, IHS, Udegaon, bellissimo, bellissimo. Arrivo del gatto alla volta, non mancava nessuno. Comunque l'hanno reinterpretato in questa maniera. Ma è inquietantissimo. Eh sì, appunto, era un po'. Perché poi, capelli blu? Perché era un Pinocchio giapponese. Vabbè. Ma comunque. Quindi i giapponesi non si fanno mancare nulla. I pericoli. Il regista i pericuri. I pericuri? Buono. No, ma non ho fatto il dettaglio in giallo. Oddio. È bello che è ispirato al Collodi, quindi nome italiano, e poi una sfilza di nomi giapponesi dei più capito. Comunque, numero 11, ragazzi, la cosa più importante, si sa, voi lo sapete, che alla fine della storia la vittoria sarà vostra. Perché comunque c'è la convinzione. No, ma la convinzione. Ah, la convinzione. La convinzione che ma comunque, sai come si dice qui in Calabria? Che la convinzione sì, sì, sì. Frega le persone. Prego, per dirla prego, in un modo tranquillo. Io sapevo fotte la gente. E ora come lo tagliamo questo? Vabbè, dalla prossima, lo dico. Poi gli mettiamo un bel beep. Perché non mettiamo i beep nelle registrazioni? Mettiamo gli effetti sonori. No, perché già domani dovrò montare tutta la puntata e dovrò fare i soliti tagli, quindi va bene così. Ragazzi, in questo punto là. In questo punto ci sarà un applauso. E quindi, ragazzi, se avete dimostrato questi 11 segni nella vostra vita, oppure se ne avete riscontrati altri, iscriveteli. C'è una chiocciola del back.it e li commenteremo, vedremo se state diventando, vi sentite già dei cattivoni della Disney. Mi raccomando, per essere cattivoni della Disney bisogna essere comunque convinti, bisogna avere un certo carisma e soprattutto fare soldi al botteghino, perché la Disney ultimamente non se la sta passando bene, tra l'altro ha preso un po' di flop, sì, poteva anche evitare di comprare quelle bellissime serie, film e cose varie che sta rovinando. No, ciao Disney, ciao Walt. Potevi evitare di comprare la Marvel solo per fare un cartone animato con i personaggi della Marvel versione cibi. Il fatto è che soprattutto voleva evitare di rovinare Iron Man, grazie. Però grazie davvero. Vabbè, film più schifoso di tutti. Aspettiamo Guerre Stellari. No, non penso che lo vedremo. No, ha preso un flop pazzesco con Lone Ranger, l'ultimo film che è andato sotto proprio alla grande. John Carter, quello precedente, altro mega flop, quindi adesso si aspetta Guerre Stellari 7 come Sì, ma se lo fa con l'ottica che deve piacere a delle persone che ci avranno 50 anni, perché sono i fan della prima serie, esatto, cioè dei primi film, aspetta, lo può fare e io lo vedrò. Se lo fa con l'ottica che deve piacere ai bambini di 10 anni, come ha fatto con Iron Man, perché io sono andato a vederlo al cinema con un mio amico, uh-huh, e il suo figlio di 10 anni, era l'unico a cui è piaciuto il film. Perché l'impostazione, ma dovete capire che faranno il remake, quindi ci sarà Luke Skywalker interpretato da Anna Montana. No, lascia stare Anna Montana che è diventata, e poi può fare lei, tipo: Luke, io sono tuo padre. Va bene, papà, ti voglio bene, dunque ti perdono. No, io immagino Star Wars Disney. Io immagino tipo Darth Vader che caccia l'elmo e dentro è tipo Piero Gamba di Legno e c'è Topolino con la spada laser e gli fa: Pippo, cala pasta. Oh, santo cielo. Pippo, no, tu mano oggi. Su Star Wars 7 la tizia, la Kathleen Kennedy si chiama, ha dichiarato che useranno i modellini, che faranno gli effetti speciali limitatissimi, che hanno capito faranno spazio passando sulla carta. Da quello che ha detto pare che non è tanto, però c'è sempre a vedere il risultato. Ma Lucas che dice? No, vabbè, Lucas sta godendo i suoi miliardi ormai. Lucas che deve dire? Quante triglie ha preso? Sarà a pesca tranquillamente. Ma ragazzi, speriamo bene. Intanto un po' di musica. Sam Will con Two Highlights. I wish the only one I got no words behind. You know I stay. By the same old thinking, by the same, the fame. I woke up in the morning, my luxury phone won't stop to keep calling. Trust me, that it's better waking than alive. I love this shit. It's gonna sweater than a bomb. Yeah, newborn rock star. Jump into my best car. You won't come any closer. Many folks cruising in the minibus. Don't stop. It's all a friend of how to show. Side of life, I'm dreaming of. Give it up and make it down for a right day. For anybody with a God, I wish the only one. I got no behind, you know I stay. Hey, hey, you know I'll stay. You know I think I'm one. There is no loss behind. You know I think about the same old, thinking about the same, the fame. Stop, I need to keep rolling. There's so much falling. There's no other me to stay. Faces are left behind but never forgotten. Memories and shade I never forgotten. I'm a superhero, I can now be for us. Future jobs will be shaken, hey, getting louder. Say. For one day, join to my life and light my tribe. Swimming this new swim, no image, yeah, try. I have no images in Wiki. I just wanna make a feed with Inkinicky. It's all a frame of how to show. Decide of life, I'm dreaming of. Give it up and make it down for a right day. For anybody with a God, I wish the only one. I got no words behind. You know I stay. Hey, hey, you know I'll stay. You know I think I'm one. There is no loss behind. You know I think about the same old, think about the same thing. Just a home. E ragazzi, era la cena dei regini, ci prendiamo le nostre cose, ci torniamo a casa, poi visitate www.ilbac.it, cliccate la cena dei regini, mi raccomando, comunicate le vostre avventure di vita quotidiana, i vostri sintomi che state diventando un vero cattivone della Disney, come abbiamo detto prima, e veniteci a trovare. Adesso vi salutiamo con un... una perfetta risata da cattivo nella Disney. O quasi. Ciao.